I carovanieri percorrono 600 metri in 30 secondi, alla velocità di 20 metri al secondo. Voi potete correre a 6 metri al secondo, se la velocità si calcola dividendo lo spazio percorso per il tempo impiegato. Quanto tempo vi serve per percorrere 600 metri?